L'Associazione Città Futura è l'associazione storica di Riace, quella da cui ha preso il via tutto quello che poi è stato chiamato modello Riace, cioè l'accoglienza diffusa fatta nelle case in giro per il paese, l'accoglienza sostenibile, umana, solidale, che oltre ad aiutare i migranti contribuisce a rendere migliore il territorio sotto diversi punti di vista, perché produce occupazione, perché produce un indotto economico, perché produce uno scambio di culture. E allora Città Futura adesso non ha più una sede in questo momento, non ha più una sede perché ha subito uno sfratto dal luogo storico in cui si trovava, che era questo palazzo nel centro storico di Riace, Palazzo Pinnarò, al secondo piano, che è proprietà di alcuni privati, insomma è stata sfrattata per diverse ragioni e quindi in questo momento non ha una vera e propria sede, insomma. E quindi noi abbiamo pensato insieme alla Banca Etica di lanciare questa sottoscrizione perché vorremmo fare acquistare a Città Futura il primo piano di questo palazzo, che è di proprietà dell'UNICEF, che però per statuto non può né affittarla né donarla, deve necessariamente venderla. Abbiamo concordato la cifra di 40.000 euro che stiamo cercando di raccogliere attraverso questa raccolta fondi per ridare proprio un luogo fisico a Città Futura, perché Palazzo Pinnarò in tutti questi anni è stato davvero il motore dell'esperienza di Riace, è stato il luogo in cui militanti, giornalisti, operatori dell'accoglienza che arrivavano da ogni parte del mondo si ritrovavano. Era un vecchio palazzo nobiliare che nel corso degli anni è stato trasformato in una vera e propria casa del popolo, quindi anche da questo punto di vista è stato un percorso simbolico. Le chiedo se al di là della questione della sede l'associazione ha avuto delle difficoltà a portare avanti il proprio lavoro dopo il ciclone che si è abbattuto appunto su Riace con l'inchiesta che ha riguardato il sindaco Mimmo Lucano. Sì, ha avuto dei seri problemi anche prima in realtà della conclusione delle indagini che poi hanno portato prima all'arresto e poi all'esilio di Domenico Lucano da Riace, perché già da tempo lo Stato aveva bloccato i finanziamenti e questo ovviamente ha avuto delle ripercussioni sulla qualità dell'accoglienza, per parlare in termini concreti non si riusciva più a pagare gli stipendi agli operatori, a dare il pocket money ai migranti, a saldare i fornitori che vendevano il cibo e tutto quello che serve per una macchina complessa come quella di un progetto di accoglienza diffusa. Noi abbiamo già da quest'estate in realtà come Rete dei Comuni Solidari provato a in qualche modo sostenere Riace, cosa che facciamo fin da quando l'esperienza di Domenico Lucano è nata, attraverso anche qui una raccolta fondi che ha raggiunto una somma considerevole di oltre 355.000 euro da agosto ad oggi, che sono già stati interamente girati a Città Futura per far fronte ad alcune necessità, ad alcune esigenze, ma che ovviamente sono stati insufficienti rispetto alle somme che Città Futura e le altre associazioni che fanno l'accoglienza Riace aspettavano dal Ministero dell'Interno. Quindi sì, le difficoltà di Città Futura sono in realtà le difficoltà del modello Riace. Le volevo chiedere anche se dopo che il Viminale è intervenuto l'accoglienza, il modello Riace va avanti comunque. Beh, Riace ha assunto anche da un punto di vista simbolico un'importanza molto ampia e allora non può chiudere. Abbiamo manifestato dicendo Riace non si arresta e quindi stiamo lavorando perché l'esperienza di Riace non si arresti e continui nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E visto che insomma c'è un'ostilità molto palese da parte dello Stato, da parte del Ministero dell'Interno, da parte del Governo nei confronti di questo tipo di esperienza che sta per essere cancellata non soltanto a Riace ma in tutta Italia, perché il decreto Salvini che è già in discussione alla Camera, nelle commissioni e che è già stato approvato al Senato eccetera, cancellerà qualunque esperienza di seconda accoglienza in Italia a favore del business dell'accoglienza, dei grandi centri, dei centri di accoglienza straordinaria dove non sono garantiti i servizi, dove ci sono stati in tutti questi anni le infiltrazioni della criminalità organizzata. Insomma, il governo ha fatto una scelta di campo molto chiara: l'accoglienza diffusa va cancellata, spianata, e invece bisogna aprire le porte al business dell'accoglienza, anche se poi dichiarano esattamente il contrario. Per cui noi proveremo a continuare, d'accordo con Domenico Lucano, d'accordo con le associazioni, senza l'intervento dello Stato, neanche dal punto di vista finanziario. Stiamo ragionando insieme alla Tavola Valdese sui corridoi umanitari, che potrebbero essere una soluzione per far proseguire in una forma diversa, ma che comunque si colloca in quella strada, il modello Riace. Tornando quindi alla campagna per dare una sede all'Associazione Città Futura, come possono fare gli ascoltatori e le ascoltatrici per contribuire? Allora, si trovano tutti quanti i dettagli sul sito della Rete dei Comuni Solidali, che è www.comunisolidali.org, e anche sul sito di Banca Etica, che è bancaetica.it. Basta andare su questi siti e si trovano, insomma, l'IBAN per fare eventualmente il versamento.